quale destino siamo legati, a quale luogo invitati, e non esserci andati per una scusa banale o una distrazione. E sarà vero che ci si sente perduti alla fine di un viale, in un giorno qualunque. E se fossimo andati, che faccia avrebbe avuto? L'amore incontrato, l'amore incontrato. La cosa è certa è che ci siamo lasciati, ma continuiamo a vederci senza incontrarci. La cosa normale è che continuiamo a parlarne, e ogni volta parlare è quasi come morire. Perché nascosto in un angolo esiste uno spazio deserto, lo abbiamo diviso e poi condiviso, e tanto amato. Nascosto nel cuore lo vedi, è uno spazio deserto dove abbiamo lasciato la parte migliore di noi, la parte migliore. Quale futuro, se esiste un futuro, ci siamo abbonati nei giorni d'amore. Ai libri e a quei film che ci piace guardare, sempre più spesso la sera. E ci vuole anche la voglia di voler commentare un finale sbagliato. Perché a essere in due ci vuole fortuna e ci vuole coraggio, ci vuole coraggio. Comunque sia, noi ci siamo lasciati, ma continuiamo a vederci senza incontrarci. La cosa normale è che continuiamo a parlarne, e ogni volta parlare è quasi come morire. Perché nascosto in un angolo esiste uno spazio deserto, lo abbiamo diviso e poi condiviso. Nascosto nel cuore lo senti, è uno spazio deserto dove abbiamo lasciato la parte migliore di noi, la parte migliore. Che il nostro cuore faccia la siepe e che ripari dal vento e dal rumore sottile che si muove dentro. Perché c'è speranza che il nostro deserto diventi giardino, e lo spazio interiore racchiuso diventi, diventi infinito. La nostra vita è come la pioggia che scende, colpisce le foglie sensibili al tatto, e a tutti